oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno a tutti, siamo di nuovo a Oltre la Crisi. Saluto e do il buongiorno a Francesco Campione, che è sempre con noi. Saluto anche Willy, che questa mattina ha deciso di aver parlato troppo e quindi ha deciso per il mutismo. Vediamo entro quest'ora quanto dura questo suo mutismo. Per adesso buongiorno. Ok, perché secondo me poi verrà sollecitato a fare qualche domandina, se lo conosco bene. E comunque, insomma, questa è la scelta redazionale di oggi. E intanto ricordiamo i nostri numeri, subito così stiamo... Diamo i numeri. Allora, per gli sms e i whatsapp 333 180 94 94, se volete intervenire in diretta via voce 051 34 64 58, e la mail, se volete riflettervela un po' con calma, amicidirivivere@gmail.com. Eravamo rimasti... Abbiamo parlato di cassa integrazione, abbiamo parlato di persone che per vivere fanno tanti lavoretti per vivere, appunto. Stavamo proprio affrontando questa cosa qui anche con i messaggi che c'erano arrivati. L'ultimo messaggio era di Andrea e poneva questa questione, dice, forse ci era uscita una frase così nel pourparler, pietà a dire che la civiltà europea è la più antica, puntini, integralismo cristiano. Io lavoro da tempo, mai per respiri centrifughi, ma o per il pane o per il mutuo. Parliamo dell'applicazione razionale della funzione lavoro, non di Aristotele. Insomma, ci vuole ricondurre più al concreto, Andrea, forse, che alla filosofia. Ma Dio, filosofia ne facciamo abbastanza poca, direi, in questa trasmissione. In ogni caso, forse conviene fare una citazione. Sì, vai. Allora, cita. Diceva Engels, che era uno che ha mantenuto per anni Carlo Marx, no? E ha scritto con lui qualcosa, era un imprenditore del tempo, così eccetera, uno dei primi comunisti, autore con Marx del manifesto, famoso manifesto, diceva: chi è senza filosofia cade preda di cattive filosofie. Ecco, bene, direi che possiamo cominciarla così la puntata oggi. Quindi la filosofia è importante, il problema è se si fa solo filosofia. Certo, giustamente. Allora sì, allora siamo d'accordo, se uno fa solo filosofia, certe volte vuole coprire col chiacchiere qualcosa, qualcos'altro. Ma senza filosofia non si possono fare cose concrete, perché senza filosofia non si capisce dove si vuole andare a parare. Bene. Bene. Detto questo... Ritorniamo al nostro tema. Detto questo, questo è successo forse qualcosa. E che cosa? Che cosa è accaduto? È accaduto un fatto che si inserisce in parte nei discorsi che stiamo facendo, perché abbiamo sempre, tu hai sempre sottolineato come sia importante in momenti di crisi, che sia di lavoro, che sia affettivo, che sia di qualsiasi tipo, per il superamento di questo stato di crisi o di disagio esistenziale, come lo abbiamo definito fino a qui, l'importanza della rete relazionale intorno di questa sorta di famiglia scelta, chiamiamo così, per affrontare i problemi. E questa mattina arriva l'ennesima notizia di questa che io definisco strage, perché comunque non è difficile di giorno in giorno imbattersi in queste notizie, purtroppo. E salta fuori che ad Afragola, a pochi chilometri dal capoluogo napoletano, appunto, un operaio del polo logistico di Nola, da tempo in cassa integrazione, ha deciso di togliersi la vita. Secondo le prime testimonianze, l'uomo pare fosse separato dalla moglie e stava attraversando un periodo di depressione per diverse vicende di tipo familiare. Quindi questo ci pone un accumulo in qualche modo di crisi, si può dire così? Sì, sì, direi che, come dire, forse questo episodio, che ovviamente dovremmo conoscere molto meglio per poter dare giudizi non scontati, Comunque può essere considerato un ennesimo episodio di qualcuno che si trova in una situazione, in una condizione sociale che è quella del cassa integrato, che abbiamo, come dire, sviscerato, descritto, abbiamo cercato di capire che condizione psicologica è, e che, come dire, non è che essere cassa integrati di per sé è una istigazione al suicidio, no? Ci sono tantissimi cassa integrati che restano allegri, che non si suicidano, che hanno, che continuano a lottare per vivere, che continuano ad avere fiducia nella vita e così via. Se un cassa integrato si suicida, non è che bisogna subito fare l'equazione cassa integrazione uguale suicidio, oppure cassa integrazione uguale perdita dell'interesse per la vita. Non è così. Bisogna chiedersi quale peso la cassa integrazione e la condizione umana, esistenziale, sociale che ne deriva, quale peso può avere nel determinare un allentarsi del legame con la vita e una perdita della voglia di vivere. Cioè bisogna vedere di volta in volta quali sono i fattori, perché i fattori che portano a rifiutare la vita sono spessissimo tanti, cioè il suicidio è un fenomeno multifattoriale, non c'è mai un solo motivo, ed è la ragione per cui è difficilissimo capire. Se uno si addentra, noi certe volte seguiamo persone che hanno un lutto perché un loro caro si è suicidato, e ci si addentra, la curiosità della persona che resta addolorata e deve superare il lutto è rispondere alla domanda: ma perché l'ha fatto? E anche quando lasciano un biglietto, anche quando ti dicono perché, la situazione, la cosa è molto complessa da stabilire, e quindi c'è una multifattorialità. Allora, anche in questo caso, in questi casi, quando per esempio adesso forse un dato va citato, e cioè sembra che la tendenza che dal 2006-2007, che si è incrementata con la crisi, a un aumento dei suicidi per motivi di lavoro, che quest'anno, all'inizio di quest'anno, ci sia stato un picco. Sembra che ce ne siano già 72, di solito sono circa 280-290, prima erano 200, poi sono diventati circa così nel corso di questi anni. Sembra che siano stati già 72, però tutte le volte... Praticamente due al giorno, occhio e croce. Ecco, quindi questo è un dato molto significativo che indica il mood, indica lo stato d'animo che attraversa la nostra società, no? Ecco, però poi di volta in volta, per essere seri, bisogna cercare di capire quale peso può aver avuto la cassa integrazione nel squilibrare una situazione, per cui per esempio la situazione della cassa integrazione può determinare un aggravamento delle situazioni affettive. Uno, quando è in uno stato di precarietà e non sa come andrà il futuro, è ovvio che se ha una situazione affettiva, che se è solo e, come dire, ha problemi affettivi, questi problemi si possono acuire, si aggravano e così via. Cioè bisogna vedere che peso ha poi nella vita di una persona quella condizione lì, cosa che, come dire, andrebbe per esempio fatta non appunto facendo l'equazione cassa integrazione o situazione lavorativa sfortunata e perdita della voglia di vivere, ma la domanda che si dovrebbe fare è: quale influenza, quale peso può avere la condizione economica, lavorativa, sulla condizione esistenziale in generale e sulla voglia di vivere, che poi abbassandosi può portare a un rifiuto della vita? Esatto, e quindi io direi che abbiamo introdotto il tema in un qualche modo attraverso questo fatto di cronaca. Abbiamo detto che spesso noi ci rivolgeremo a fatti di cronaca per poi andare addentro alle questioni. Direi che Willy, il muto Willy, può però allietarci con la musica, ma anche magari dirci che cosa mette, va? Beh, mettiamo un brano degli Zucco 103, da Outro Lado ascoltiamo questa bellissima canzone di tinte brasiliane che potrebbe essere una colonna sonora per la nostra trasmissione. Humana si chiama, Humana. gente lembra. Tristeza, lágrima e até mais. É tanta coisa pra gente contar. Talvez sonho de voltar. Os braços vão me apertar e aquela lágrima sei vai rolar. É tanta coisa pra gente sonhar. Talvez sonho de voltar. Quantas vezes poder voltar, mas sempre é cedo pra ficar. Gente crescer e o que quiser fazer por merecer. É tanto sonho pra gente esquecer. É mais sonho a se perder. Quantas vezes querer voltar, mas sempre é cedo pra ficar. Segue em frente. Continuo col mio appello ad aiutarci a condurre questa trasmissione e a sollecitare il nostro Francesco Campione scrivendo un sms o un whatsapp al 333 180 94 94 oppure telefonandoci allo 051 34 64 58. Francesco, parlavamo di questo operaio che si è suicidato, luogo comune se vuoi, o luogo comune condiviso, è quello della preziosità della vita, e mi domando che cos'è che porta a rompere questo tabù, per per certi versi. Certo, come dire, c'è l'idea di senso comune che la vita viene prima di tutto e non bisognerebbe mai mettere in discussione, cioè nel senso che non c'è niente di più prezioso della vita. Se non c'è niente di più prezioso della vita, qualunque cosa non basta per mettere in discussione e per farti venire voglia di non vivere. D'accordo? In realtà, come dire, bisogna vedere che vita è. Il primo punto da sottolineare è che ci sono vite che per chi le vive non sono per niente preziose. Fanno schifo. Ci sono vite che sono vite alienate, vite infelici, vite piene di umiliazione. Ci sono vite che tu te le porti addosso, ci vivi dentro con grandissimo, enorme disagio. Dopodiché, nel tempo, piano piano, puoi sviluppare nei confronti di quella vita un giudizio di negatività. È una vita che non è affatto preziosa, è una vita che è scadente, è una vita di pessima qualità, è una vita atroce, è una vita terribile, è una vita... Dopodiché, inevitabilmente, tu, come dire, perdendo valore, puoi buttarla via più facilmente. Un modo per giustificare la violenza è che si sta facendo la violenza su qualcosa o su qualcuno che non conta niente. Questo vale anche per la violenza che si fa sugli altri, ma vale anche per la violenza che si fa su se stessi. No. Questo però non è l'unico modo per togliersi la vita. Un altro modo per togliersi la vita è un modo più orgoglioso, cioè per dire: ci sono persone che non è che svalutano la vita e quindi poi la buttano via, non la vogliono più, no? Ma la loro vita la valutano molto. E proprio perché la valutano molto, si sentono offesi da ciò che la colpisce, la offende. E quindi se la tolgono perché l'unica possibilità che vedono per affermare il loro valore è di dire: io ci rinuncio pur di dire che non mi va. Cioè, tant'è vero che anche nel corso del tempo, filosoficamente, eccetera, il suicidio è stato anche considerato come il più profondo atto di ribellione, no? Ma queste cose che stai dicendo tu, da che cosa si evincono? Ovviamente non dalla persona che si è suicidata, che non può più parlare, da quello che lasciano, tipo scritti o cose del genere, oppure più propriamente da quelli che ci avrebbero provato, ma poi c'è stato qualcosa che li ha fermati e quindi sono rimasti qui per raccontarcelo. Certo, tu hai perfettamente ragione. Lei, come dire, nella la figura del suicidio, no? Il concetto di suicidio non può essere considerato a pieno se non si considera che non è che uno si suicida una volta sola o ci riesce la prima volta. La maggior parte delle persone ci provano. La maggior parte delle persone, c'è il tentato suicidio, come dire, ha il maggior numero di persone che viene in contatto con il suicidio sono persone che lo provano, lo tentano, non persone che ci riescono. Quelli che ci riescono sono una piccola minoranza. Infatti, rispetto a quelli che ci provano, quelli che poi ci riescono sono pochissimi. No. Quindi tu hai perfettamente ragione. Cioè, in definitiva, poi, accanto alle testimonianze che lasciano, ecco, per esempio, se le persone che quando vanno in crisi e hanno voglia di rifiutare e cominciano a rifiutare la vita si spaventassero e corressero subito a chiedere aiuto, per esempio al servizio Primo Maggio se gli capita perché hanno perso il lavoro, o al nostro servizio perché se gli capita perché qualcuno li ha lasciati, perché hanno perso l'amore, no? Se venissero lì si potrebbe, come dire, fare quello che noi facciamo come psicologi quando c'è qualcuno che ci chiede aiuto, e cioè che noi lo accompagniamo in quello che è un percorso per invertire la tendenza. Cioè la tendenza a suicidiare, cioè la tendenza a rifiutare la vita, può essere, è un percorso, ci vuole del tempo per arrivarci, E, quel, e se si prende nel percorso, uno può essere aiutato a invertire quel percorso, no? È un percorso fatto di che? Cioè, così ovviamente non è che vogliamo fare in trasmissione un processo di, te, un, di terapia, un percorso di terapia. No. Però quali sono gli elementi fondanti? Ma dipende dal, dai motivi per cui uno rifiuta la vita. Per esempio, se uno rifiuta la vita perché non riesce ormai da anni a essere se stesso, perché tutto quello che vive nega i suoi desideri, la sua identità, e uno rifiuta la vita perché la vita che fa o la vita che è non è la vita che vorrebbe, sì, no? Tu, il percorso è un percorso di abbandono della vita che si può invertire. In che senso? Si può invertire se si riesce concretamente ad aiutare le persone a cambiare obiettivo e a riconsiderare la speranza di poter soddisfare i propri desideri. Dobbiamo andare in pubblico. Sì, ho un messaggio, lo leggiamo appena rientriamo dalla pubblicità, quindi intanto vi esortiamo a mandarcene degli altri o a chiamarci allo 051 346 458, o altrimenti appunto messaggi al 333 180 94 94. Musica, pubblicità e poi rientriamo subito con il messaggio che ci è arrivato. Thank you. Eccoci, siamo rientrati dopo la pubblicità. Io avevo promesso la lettura di un messaggio che ci è arrivato e questo è: qualche anno fa, parlando di un caso analogo a quello che abbiamo citato dell'operaio, un mio collega definì il suicidio uscita di emergenza. Certo, in effetti il suicidio è giusto, in effetti il suicidio spesso è come il tentativo di... la certezza di aver trovato un'uscita di emergenza. Peccato che quell'uscita di emergenza è come in certi film, no? Che tu trovi l'uscita d'emergenza e fuori c'è il baratro. Cioè un'uscita d'emergenza, l'uscita, il paradosso del suicidio quando è un'uscita d'emergenza, cioè quando è una scelta della morte, allora il suicidio, cioè come dire, è abbastanza logico, razionale. Infatti c'è il suicidio razionale, si chiama proprio così. Quando uno dice la vita mi fa schifo, scelgo la morte, no? D'accordo? Ma se invece tu scegli la morte non perché vorresti morire, ma perché sei senza via d'uscita e hai bisogno di, non ce la fai più, hai bisogno di uscita d'emergenza. Per esempio, per certi per molti malati è così. Molti malati che dicono meglio morire, in realtà non vogliono morire, perché appena stanno un po' meglio non vogliono più morire. No. Uh-huh. Quindi cioè, secondo me come dire, quando ci si suicida perché non si trovano più vie d'uscita, il suggerimento che bisognerebbe dare di saggezza è di pensare che c'è ancora tempo, non c'è via d'uscita ora, che si vedano ora, ma domani potrebbero esserci, perché se tu prendi l'uscita d'emergenza ora, escludendo che domani ci possano essere altre uscite, l'uscita che prendi è un'uscita senza ritorno. E qui mi viene una sollecitazione, perché si dice spesso che, e lo si prova anche, mettiamola così, che la società è arrivata a un punto, la nostra occidentale intendo fondamentalmente, è arrivata a un punto dove si sono ridotte al lumicino le speranze, cioè quella che era la speranza, soprattutto per i giovani, ma non solo. E tu dicevi giustamente, forse oggi non la vedo l'uscita d'emergenza, ma domani mi appare. Però appunto ci stanno un po', come dire, si stanno un po' riducendo si sta un po' riducendo la visione verso un'ipotesi di domani dove potresti trovare la soluzione. Certo, perché tu, per esempio, l'esempio dei giovani che non trovano lavoro, per esempio, e dopo un po' non lo cercano più, cioè perdono la speranza, gli scoraggiati, no? Questa, c'erano milioni di giovani che fanno così, no? Sì. E in definitiva è perché la speranza la chiedono proprio a chi gliela toglie. Il mondo che te la toglie, cioè il mondo che non si prepara per il tuo arrivo nel mondo del lavoro e invece di prepararsi per milioni di giovani che arriveranno, se ne frega e fa le sue speculazioni, per cui una volta manca il lavoro di qua, una volta manca di là, a caso, a seconda di come va l'economia, d'accordo? Un mondo così è quel mondo lì che ti toglie la speranza. C'è un mondo che non si preoccupa di costruirla, la speranza. E tu, quando la speranza non la senti più e la perdi, non ne vedi più, perché ti guardi attorno e attorno non se ne vedono, perché attorno c'è quel mondo lì. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che i giovani la speranza non la trovano perché non si prendono il tempo per cambiare il mondo, perché da questo mondo non possono averla. Se la cercano da questo mondo, sono senza via d'uscita. Allora il problema vero è, per come esempio, mettersi lì a costruire un altro mondo. Certo, perché non è proprio così. No, ma questo però vuol dire, per esempio, che bisogna non colludere col mondo che ti toglie la speranza. Per esempio, il mondo che ti toglie la speranza ti dice contemporaneamente che tu non puoi lavorare perché non c'è il lavoro, ma che tu l'unica cosa che puoi fare per vivere è lavorare. Ma tu perché ci devi credere? Non è così. Se milioni di giovani smettono di cercare lavoro, ma non deprimendosi perché l'unica cosa che possono fare è cercare lavoro e siccome il lavoro non c'è è meglio non cercarlo, ma smettono di cercare lavoro e cercano felicità, smettono di cercare lavoro e cercano gli altri e cercano solidarietà, cambia tutto il mondo, Il fatto è che tu smetti di cercare lavoro e non fai più niente. Mi ricorda Danilo Masomasotti questa teoria, No, mi piacerebbe che telefonasse per confrontarsi proprio su questo. Magari Danilo, lo cerchiamo la prossima. Chi è Danilo Masomasotti? È uno scrittore, un musicista, un opinionista, eccetera, eccetera, che è proprio provocatore. Provocatore, è un caro amico della radio che appunto da tempo sta conducendo questa battaglia di provocazione proprio su Facebook sul fatto c'è ancora troppo lavoro, oppure sul discorso dei giovani. No, c'è solo lavoro. Esatto, sui giovani che accettano lavoro. Il lavoro gratuito, lui dice: se ti puoi permettere di accettare un lavoro gratuito, vuol dire che puoi anche non lavorare. Certamente, ha perfettamente ragione. Certo. Ha perfettamente ragione. Se ti puoi permettere di accettare un lavoro gratuito, lo stai facendo per opportunismo. Sei un opportunista se accetti un lavoro gratuito. Perché chi non se lo può permettere di accettare un lavoro gratuito, quando glielo offrono, metterebbe 8 bombe. Perché... oppure non ci va. Ma è che delle volte ma non si pone il problema di accettarlo o rifiutarlo. Non ci va. Si offende e basta, perché se tu hai bisogno di mangiare ti offrono un lavoro gratuito e non hai altra possibilità, tu certo, che fai? Certo, però c'è sempre il, diciamo, ricatto sociale o sociologico, non lo so, del tipo: se comincio gratuitamente poi mi faccio conoscere, magari diventa un lavoro. Certo, ma il che vuol dire che tu non stai accettando un lavoro, stai accettando un aiuto. Allora ditti un'altra cosa. Una possibilità. Stai accettando che si apra una possibilità, cioè stai dicendo: se io fai precisamente la stessa politica che si fa in rete, che fanno tutti quelli che in rete guadagnano, che per 2 anni ti danno tutto gratis e poi ti riprendono tutto con gli interessi dopo 2 anni. È uguale. Tipo, no scusa, questa non l'ho capita. Cioè tipo tutti i servizi gratis che ti offrono, ah, sì, okay, te li offrono gratuitamente, perché dopo te ne venderanno un altro molto più costoso. Certo. Allora tu fai precisamente la stessa cosa. Ti regalo un anno della mia vita. E tu, cioè praticamente è il meccanismo classico di sempre, di chi dà per avere in cambio. No, si chiama opportunismo. Si chiama semplicemente opportunismo. Teniamo presente anche che stiamo parlando sempre di un lavoro che è lavoro alienante, stressante, che ti mette in difficoltà e di necessità. Ci sono lavori che piacciono, lavori che si fanno volentieri, lavori che non si vede ora di alzarsi la mattina per andarli a fare. Ma allora quello non è gratuito. Vieni pagato in termini di gratificazione del lavoro che fai. Non è un lavoro gratuito. Ok. Se a te ti offrono di fare una cosa interessantissima e non ti danno niente, tu lo puoi accettare, perché non è vero che non ti danno niente. Ti danno l'interesse. Ti danno la felicità del farlo, quel lavoro lì. Bene, vai in musica che dopo c'ho un'altra domanda. Aspetta, per il prof. Fagliela, no? Adesso. No, la domanda è questa. Tu prima dicevi, prima di citare Danilo... No, voi l'avete citato Danilo. Sì, prima che io citassi Danilo, tu dicevi... per cambiare il mondo, per esempio, un esempio che facevi è smettere di cercare lavoro e cercare soddisfazione, felicità, solidarietà, amore, ecco, comprensione. Per esempio, se i giovani dedicassero un pochino del loro tempo invece che a sballarsi, a cercare lavoro, a dormire e così eccetera, dedicassero un po' di tempo in più a cercare le parole per capirsi con gli altri, che sono tutti afasici, non sanno più dire niente, i loro sentimenti li sanno solo sentire ma mai esprimere. Se dedicassero un po' più di tempo a questo, il mondo cambierebbe. Ok, allora adesso la mia provocazione e domanda a cui risponderai dopo il brano musicale è: ok, mentre io cerco queste parole o cerco questa felicità, chi mi nutre? Il mio papà, la mia mamma, i miei nonni. Se li ho. Ma guarda che la maggior parte dei giovani da noi che cercano lavoro e non lo trovano, possono smettere di cercarlo perché qualcuno gli dà da mangiare. Condivido. Se no non potrebbero smettere. Voto per campione. Eh sì. No. Amor. E stavolta rientro io con una citazione di mia mamma, che quando si parla dice sempre, a proposito della crisi, finché i baiuc di nun, finché ci sono i soldi dei nonni. E con questa citazione direi proprio azzeccatissima, secondo me. I giovani possono permettersi di fare quello che gli pare, meglio dire un lavoro che gli piace ed avere più possibilità, tra virgolette, come diceva il professor Campione, di insomma prendersi il loro tempo e vivere la loro vita come meglio credono. No, ma il guaio è che non è che si prendono il loro tempo per cambiare il mondo. Il guaio è che si prendono tutto il tempo e se ne sbattono del mondo. Questo è il guaio, nella grande maggioranza. Guardate, i miei studenti, io ormai sono, come dire, disgustato dei miei studenti. Ops, no, vai. No, sono veramente disgustato. Sei studente e manda un sms aspetta. Sì. Quando dico i miei studenti, certo, dico una categoria generica, sto usando, come dire, certo, una categoria statistica. Poi ci sono le persone con le palle tra i miei studenti, non sono tutti così, ovviamente, ecco. Però in grande maggioranza i giovani sono convinti che quello che conta sono le raccomandazioni, e non hanno tutti i torti, perché è una cosa realistica, no? È vero, anche per un lavoro a curriculum non lo trovi più, certo, cioè, perché uno guarda il tuo curriculum e dice certo, bisogna avere delle conoscenze per trovare un lavoro, però, il problema è: perché tu non ti rendi conto che quella cosa lì va cambiata e ti lamenti soltanto del fatto che c'è? E a chi tocca cambiarla? Non certo a chi giova, tocca a chi viene svantaggiato da quella cosa lì. Cioè, è come chiedere in una anche a chi giova, magari in un caso giova e in un altro lo svantaggia. Ma se per caso una volta mi giova, io poi ci riprovo. Hai capito? Allora, quelli che dovrebbero cambiare il mondo, come sempre, sono quelli a cui quel mondo non va bene, quelli che non sono rappresentati in quel mondo, no? Se quelli che dovrebbero cambiare il mondo invece sono i più inerti di tutti, quel mondo lì è fottuto, è rovinato. E secondo me la responsabilità fondamentale, non vorrei esagerare, ma la responsabilità fondamentale di come vanno le cose non è di chi ha costruito questo mondo, ma di chi, scoperto che andava male, non ha fatto niente per migliorarlo. E non ha nessuna intenzione di farlo, perché spera che quel mondo stesso sbagliato in sé trovi, io adesso non vorrei, ma faccio una piccola parentesi, incursione nella situazione politica, no? Perché siamo paralizzati? Siamo paralizzati per questo. Chi vuole cambiare il mondo non sa in che senso, vuole solo, e quindi alla fine diventa solo distruttivo. Non è possibile andare avanti così. Cioè, chi ha interesse che il mondo cambi, faccia la sua parte, cerchi di cambiarlo. Ora, per esempio, appunto, nei 10 anni o 15 delle generazioni perdute, che tu stai lì a girarti i pollici e non hai niente da fare, sono 15 anni perduti. Il 40% dei giovani che hanno 15 anni di tempo, con tutta l'intelligenza che c'è nella gioventù e anche la sapienza, perché hanno anche studiato, il mondo in 15 anni cambia ogni 5 anni, in 15 anni può cambiare 3 volte, eh? Con questo io sono rimasta senza parole, devo dire la verità, perché mi sembra di vedere una sorta di circolo vizioso che si autoalimenta in realtà. Sì, ma bisogna spezzarlo, è proprio questo che stiamo dicendo. Il circolo vizioso va spezzato, si alimenta il circolo vizioso. Se c'è un mondo che produce disoccupazione, c'è un mondo che produce disoccupazione, e i disoccupati si aspettano da quel mondo che produce disoccupazione che produca lavoro. Perché, no, ti dico, il paradosso non c'è niente è che molto fare. Spesso quelli che vogliono, che invece avrebbero l'energia e la voglia di cambiare il mondo, sono quelle persone che invece il loro tempo e le loro energie le devono dedicare a lavorare, perché magari non hanno i nonni, i genitori. Ma quelli lo stanno già cambiando attraverso, quelli hanno un altro compito, quello di cambiarlo attraverso cambiando il loro lavoro, cambiando i rapporti di lavoro, cambiando il senso quelli hanno un'altra funzione. io sto parlando della funzione di quelli che non hanno niente da fare. Bisogna spezzare il circolo vizioso. Lancio un'altra provocazione. E se il circolo vizioso per queste stesse persone è ancora troppo comodo? Beh, questo io, come dire, penso che ci sia un grado di verità in questo. Cioè che si potrebbe dire che in parte è così. Perché in effetti... però sarebbe tragico se noi dovessimo aspettare, come è sempre stato nella storia, che la gente stia talmente male per ribellarsi, perché quando la gente si ribella perché sta molto male, la violenza e il sangue sono inevitabili. Purtroppo sì. Quindi, come dire, noi siamo in una posizione favorevolissima da un certo punto di vista. Abbiamo cioè una massa di giovani a cui questo mondo non va bene, toccherebbe a loro cambiarlo. Loro non hanno questa urgenza di cambiarlo perché in fondo poi sopravvivono, perché ci sono i nonni, ci sono la nostra cultura è così. Quindi avrebbero il tempo di ma non fanno niente. Perché è comodo. In grande maggioranza. Sì, perché attenzione, è comodo. Non vogliamo generalizzare. Perché è comodo. Sì, ma se è così, significa che non è che stanno ragionando come chi dice il mondo non va bene e va cambiato. Stanno dicendo il mondo non va bene e qualcuno lo deve cambiare per me. Cioè stanno rifiutando la responsabilità, come dire, epocale che hanno. In ogni epoca la responsabilità di migliorare il mondo spetta ai giovani. Esatto. Quello un po' che successe, tu stai un po' in qualche modo auspicando, ovviamente con tutte le dovute, i dovuti riaggiornamenti del caso, un qualcosa come quello che poteva essere il movimento del 68-69, che ha fatto questa cosa senza arrivare a guerre o quello è stato l'ultimo. Sì, certo, lì spargimenti di sangue. Lì è stato come un processo che però a un certo punto si è fermato. Certo, cioè bisognerebbe riprendere, ma ci sono tante cose che andrebbero riprese, non è che l'umanità è la prima volta che ci prova. Cioè, per esempio, in questa epoca il problema è fondamentalmente, secondo me, per cambiare le cose, il problema della complessità e della pazienza che ci vuole per cambiare le cose complesse. Cioè il mondo è diventato talmente complicato che cambiarlo non basta dare una bastonata a chi comanda. Perché una volta era così, bastava uccidere lo zar. Si uccideva lo zar, si faceva un attentato al re e cambiava tutto. Ma non è così ora. Ora non è così, perché appunto il mondo cambia se cambiano i comportamenti delle persone. Cioè se cambia nella sua complessità intrinseca. Ecco, per esempio, se cambiano le relazioni tra le persone. Un messaggio adesso, Ale, un messaggio alla fine. Pensa mo che non dovevo neanche parlare io oggi. Aspetta, eccolo qua. Non ho assorbito ancora tutto il discorso del professore, ma sottoscrivo quest'ultima parte. Ho lavorato per anni nel mondo della cultura, scontrandomi con un settore molto provato e alle volte ottusamente chiuso. Ho cambiato settore, ma continuo a lavorare volontariamente in una commissione di professionisti che sta proponendo al governo e al MIBACT possibili soluzioni e il riconoscimento formale di alcuni profili professionali. Io sono una giovane e piccola risorsa, non so quanto utile, però ci provo. Questa è appunto una testimonianza, un racconto, un'esperienza di vita che va proprio nella direzione. Certo, allora per quanto secondo me la cosa che viene in mente è benissimo, quindi non è vero che se tutti vanno in una certa direzione, benissimo, per quanto piccola sia una risorsa, per quanto uno si senta piccolo come risorsa, no? Il problema è mettersi in un tempo adeguato. Il problema è prendersi il tempo che ci vuole, non arrendersi. Forse va anche scardinato un po' il concetto di tempo come ci viene imposto, esatto, nel senso che se io mi metto in moto e pretendo che tra un minuto sia già come voglio io il mondo, il senso di impotenza la fa da padrone. Brava, l'efficientismo, bisogna sconfiggere, cioè il problema è che noi finiamo per condividere l'ideologia del mondo che vogliamo cambiare se ne condividiamo il cardine, che è l'efficientismo. Il quale efficientismo significa che il modo per fare le cose è di farle in un tempo breve, bene in un tempo breve, ma bene in un tempo breve si possono fare solo le cose tecniche. Cambiare il mondo in un tempo breve non si può. Poi anche quelle tecniche abbiamo dei dubbi. Ma con le tecniche però si può fare, in questo la creatività umana dimostra, con le tecniche si può fare. Però bisogna vedere cosa, per esempio, se tu ti proponi di avere una tecnica per non soffrire quando ti muore una persona cara, quella non è una tecnica, che ci vuole poco tempo. No, certo. Se tu ti proponi di avere una tecnica per sbucciare le patate, ci riesci. In un tempo X. A quest'ora direi che chi non ha mangiato, buon appetito a proposito di patate. Va bene, ringraziamo le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori che ci hanno aiutato, certo, a portare avanti. Mi pare che ci sia, possiamo notare che, anzi, ringraziamoli. Infatti li volevo proprio ringraziare, perché senza il loro aiuto io mi trovo da sola con Francesco con questo trombone e arrivo fino a un certo punto, insomma, anche i miei limiti. Willy poi quest'oggi ha votato per il mutismo, quindi però ha intervenuto alla fine, te l'ho detto che non reggeva. Hai visto? Li ringraziamo, li invitiamo a riascoltarci anche mercoledì prossimo. C'è vita oltre la crisi, appunto, visto che abbiamo parlato di, direi che la chiusa finale possa essere questa. Cosa ne pensi? Penso che vada benissimo. Diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre dall'una alle due. Vi ricordo la mail, se volete durante la settimana scriverci, amicidirivivere@gmail.com. ciao, buon pomeriggio. Ciao. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.